Ci volevano proprio quei giorni, ci voleva quella degenza all'ospedale, ci voleva quella tortura, perché capissi, dopo tanti anni di studio e di vita pastorale, capissi che bisogna dar ragione a Dio sempre e quanto prima, perché allora la tempesta si acquieta. Non è che dopo di quel momento lì i medici mi abbiano esonerato da quella tortura, no, ma l'aver dato ragione al Signore ha operato dentro di me un cambiamento. Cambiamento. Sì, i nostri bravi alpini lo sanno, che quando si salgono i sentieri ripidi, ardui della montagna, bisogna cantare. Canterellare, perché allora si asfaltano i sentieri della montagna? No, non si asfaltano, state certi, però tu li percorri come fossero asfaltati. È una bella lezione che ci vende i nostri alpini, che bei canti, ce li invidiano, sapete, i canti dei nostri alpini. Canta che ti passa. Se andate su all'osteria di Potesteria, trovate, se c'è ancora quella scritta, canta che ti passa, bevi un goto e va con Dio. È bella lezione, canta che ti passa. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore ogni giorno un canto nuovo. Ma cosa sarà oggi? Prima che tu ti levassi, la provvidenza divina aveva già disposto tutto, anche questa mattina. Tutto è disposto. Chiudete pure gli occhi, il mondo va avanti lo stesso, perché è nelle sue mani. Noi siamo tristi a volte, ci prende una certa malinconia, un qualche cosa di strano che non sappiamo neanche noi spiegare, né ai figli, voi alla moglie. Ma che cosa? Mi sono alzato con la luna. Dà ragione al Signore anche delle varie fasi della tua luna. Abbiamo tutti la luna, vero? Chi ce l'ha al lunedì? Molti al lunedì. Chi ce l'ha il martedì? Chi ce l'ha il venerdì? Un po' di luna l'abbiamo. Sarà perché abbiamo mangiato, non so, mangiato cotichino, salame, cipolle, non so, abbiamo mangiato e non digerito. Sarà perché abbiamo preso un po' di fresco stanotte, abbiamo digerito male. Noi non sappiamo, ma lui lo sa, fidiamoci, diamogli ragione. Un altro fatto, questo è di ordine morale. Un tizio anni fa mi ha fatto un grande dispiacere, io stesso temevo di soccombere. Bene, quando è capitato il giorno cui appunto questo dolore doveva toccare il massimo, io mi sono sentito preso da una gioia, da una felicità, proprio a motivo di quella persona che in quel giorno lì mi doveva dare lo schiaffo più terribile. Una gioia che quando ci penso dico è una cosa misteriosa, cioè del tutto spiegabile. No, non è possibile spiegarla. Quel giorno lì, quell'ora lì, in quel momento lì, in quell'incontro lì, io ho toccato il cielo col dito, un'espressione nostra. Come se quel dispiacere non l'avessi mai avuto. C'era e toccava il punto più alto del dispetto. Una gioia. Chi aveva disposto quella sofferenza, quella coltellata? La provvidenza di Dio. Ma anche le cose cattive, Dio non organizza il male, non può volere il male, ma è così intelligente che sa cavare il bene anche dai nostri pasticci o pastrocci. Sa cavare il bene anche dal male per i suoi figli che di lui si fidano.